canale 10. Paola, ehi, Giovanni, ma sia una 10. Sì, chi è? Chi è? Allora, se sei Giovanni mi stai arrivando Santiago di Otto, ma la radio è un po' compressa, capito Giovanni? E la radio non sta uscendo bene, il segnale va bene ma la radio no. Sì, adesso va meglio. Come va Giovanni oggi? E c'è molto, diciamo, bailame sulla frequenza, quindi arrivano segnali 7, 8, capito? E si capisce poco però. Ascolta, ma che microfono stai usando? Sei in barra mobile oppure a casa? Oh Giovanni, non ti sento più, Sì, eccolo qua. Sì. C'ho più apparati, Cappa, guarda a vedere com'è. Allora, fammi, premi la portante muta per un vari secondi. Sto provando un'altra antenna, com'è? 9 più 10, 9 più 10 tondo. Molto meno della Ringo. Ecco, l'altra sei tipo 9 più 20, da liscio, è sempre da liscio. Cappa, ho messo la potenza a manetta, adesso. Vediamo, vai. 1, 2, 3, prova. Non cambia molto, no. Fammi vedere lo scatto durante il passaggio. Cioè, a me con la potenza è premuta, stacca e attacca. No, non è stacca e attacca, sto aumentando la potenza. Così, è bassa potenza, all'incirca è così. E così tutto al massimo, com'è? Non cambia un granché, Anto. A questo smitter non te ne accorgi quasi. È tra 9.10 e 9.15, dai. Cappa, è molto di meno. Adesso provo, faccio un passaggio con la Ringo. E io. Ora ho la Ringo, com'è? E 9.20 pieno. Cappa, qua. Allora, così con la potenza manetta, con la ringo. Cappa, ancora. 1-1 stazionare, molto migliore, vero? Sì, diciamo da 9.10 pieno a 9.20 pieno, capito? Poi quando tu attacchi altro arrivi a 9.25, eccetera. Ascolta, e poi qual era quella che hai preso? Quella a 3 radiali o a 4? No, no, stavo provando una Storm, stavo provando. Capito? Ecco qua. Sto provando una Storm 27 e volevo vedere come usciva. Ah, la famosa Storm, sì, quella che ho anch'io, un po' tutti l'hanno avuta, sì, quella da un metro, quel bastone nero, quel manganello. Sì, sì, quella se la metti in alto, dopo tutto, cioè rende il giusto, per la città va bene. Quindi 10 dB, 10 decibel, capito? Diciamo, differenza sono notevoli per un'antenna verticale. KK. È un bel, questa addirittura manco la stazionare si muovo qua. Eia, tu conta che se avessi un'antenna un quarto d'onda caricato, tipo quella mini Grand Plane, potrebbe essere anche minima la differenza, potrebbe essere tipo 9.15 e 9.20 dall'una all'altra, dalla ringo alla cosa. Cioè dovrebbero variare in teoria, sempre a livello teorico, quei 3 dB, mezzo Santiago, massimo 1, massimo, ma proprio per eccesso. Gappa. Ma questo è un altro pianeta, dai. E beh, vuoi mettere un'antenna di mezz'onda con un'antenna da un metro, buce tutto. Caspita, oggi me la sono presa comoda, mi sono alzato, ho fatto colazione, poi mi sono ricoricato. Peccato perché la giornata era bella. Ieri sono stato tutto il giorno fuori, quasi. E oggi dice che era nuvoloso, le previsioni dicevano ieri che era nuvoloso, invece c'è un sole e un bijou di giornata. A saperlo prima mi si era organizzato e si era andato un po' in girella. Adesso mi devo fare i capelli, mi devo tagliare i capelli, mi devo fare il bagno, non doccia, bagno proprio a immersione, anche la testa immergo. Kappa. A me dai un attimino che metto a posto qua, che tanto non mi arrivi lungato, lascio stare su, ma li cambiano il capo e poi vedo un po'. Eia. Non c'è nessuno qua sul 10, no? A parte che presto magari sono, chi poi è andato Platamon, la roba del genere. Io mi sto facendo il bagno, ho capito. Entro la camera, mi sono messo la vasca. Dai Antonello, vuoi che venga a insaponarti la schiena? Adesso faccio la prova con Pompugno, che lui è più lontano. Ti ho già visto. Cioè, sono 3 dB di differenza tra una e l'altra. Una 6.920, l'altra 6.917. Vai tu. Cioè da te è minima la differenza, Antonio, a me è notevole, cioè da 9.10 a 9.20, caspita, c'è un bel di differenza. 17.20 a me mi arriva, 3 decibel pratica, so, poco, perlomeno, poi non lo so. Dopo 27 la sacra è il lavandino, beh. Se aveva messo la tubo 2001, quella che c'ha la moto, se gliela frega l'antenna a quello che c'ha la moto carrozzera che prende le bombe in gattolatti, ci mette quella con la base di Grand Prix e 4 radiali di Grand Prix, e sai come esce? Un siluro di vento. Ehi Antone, hai visto il bagno, ti stai facendo, ma il bagno come? Nella birra o col bagno schiuma? Ah, la birra rimane, se ho messo la verde. Quelle le console affidate dalla Eurospi. Sono leggere, se no non ti fanno un cazzo. L'unica cosa è che vai a pisciare e a cagare, perché ti fa diarrea e cose. Hai capito? Sembra che stai bevendo acqua di San Martino, come si faceva, come facevamo una volta. È allucinata l'acqua San Martino, adesso è cambiata, ma prima come la bevevi, due o tre bicchieri, e partivi prima a pisciare, poi ti facevi la cacca addosso, diarrea. Sì, addirittura per un po' di acqua, e cos'è? Cosa sono? Sali inglesi, o Guttalax? Ah, non lo so, a me faceva così la San Martino, infatti non l'avevo per niente. Ho svegliato una volta, cazzo, sono partito a cagare la diarrea. Nulla. Sì, comunque vabbè, la San Martino, io intendo quella frizzante, è molto... c'ha molti sali minerali, a me il sapore non piaceva quando ero piccolo, adesso me lo faccio piacere, cioè l'acqua che c'è bevo, però è salina, sì, è un po' troppo ricca di sali minerali, a me non piace, a me piace più neutra l'acqua. Tu figurati, cazzo, chissà quanto hai bevuto, non ce ne siamo neanche accorti, cazzo. Quando l'ho trivellato, non te lo dico, devo, ero sbagliato e l'avevo bloccata subito perché l'acqua era piena d'oro, cazzo. Quindi immagina, allora ci avevano messo un palloncino di quelli grossi, cazzo, per poter bloccare l'estrazione. Era sparita l'acqua del tutto, era sparita nel pozzo, e dove c'è uscita nel pozzo l'avevano fatto a fianco, cazzo. Aspetta che metto lo squelch, è così. Il silenzio totale. Bene, io mi devo ancora bere il caffè, c'è una tazza di caffè, bello zuccheroso, me la devo ancora prendere. E oggi me la sono presa così a... penso sembra Maria Zuffia, c'è i capelli tutti disordinati, me li devo rappare. La barba, vabbè, quella è già fatta, non ne ho, però i capelli vanno tagliati. Perché tu c'hai un sacco di capelli, ecco perché. Sembri che non l'ho più visto, non hai sentito, non so se è ancora vivo. Giovanni Cuccio c'aveva la stessa, pieno di proprio i capelli belli, neri, ma non gliene mancava manco uno, non gliene mancava. Poi mi ricordo che c'era, ma ti parlo di 6-7 anni fa, forse anche di più. L'avevo visto una volta, mi aveva detto, cioè, io non sto bene, c'ho dei problemi, mi aveva detto, cioè, ci vediamo, Antonio, ci vediamo, poi non l'ho più visto, ha detto. Non so se sia vivo, se sia morto, poi. Non mi ricordo, Antonio. Sì, i capelli io ce li ho, come dire, fitti, folti, non lunghi, perché io lunghi non li tengo, però sono folti, cioè non ho né stempiatura, né chierica, sai, certo gli viene la chierica lì, le li porto e sopra, però si stanno imbiancando in fretta, stanno diventando bianchi, soprattutto sopra. E vabbè, pazienza, Antonè, d'altronde. Io penso che quando ti avevo visto nel 2010, dopo 20 anni che non ti vedevo, ti ho visto bianco bianco i capelli, ho detto, Antonè, all'anima, ne è passato il tempo. A me mi sono diventati subito bianchi. Ma anche Giampiero dice, mi piava per il culo, sei stempiato prima di me, faceva, io ho detto, canta, gli ho detto, guarda che gli ha te la bassa pure a te, te li bassa. Adesso che lui è stempiato, però lui i capelli ce li ha neri, hai capito? Cioè, e c'ha 2 anni più di me, io ce li ho bianchi, ma lui ce li ha proprio neri. Vabbè, io li ho avuti bianchi perché con la questione della psoriasi, hai capito, mi ha cribato, però ce li ho neri, ce li ho neri in tutto il corpo. Capito? Meno male, dove prima del pisello già sono tutti neri, belli lucidi. C'erano i capelli lucidi quando ero piccolo io, c'erano i capelli lucidi, non c'era bisogno di tingermeli. Poi cominciava mia zia, che bei capelli, che c'è, che bei capelli, che c'è, cazzo, sembrava bestemmiato, cazzo, era fanculo, ho detto zio. Purtroppo si fa una domanda, ciao Marco. Dimmi. Ma c'è Giovanni Cuccia non era amico tuo, non uscivi con lui, ti vedevi spesso? Lo vedevo spesso, poi un giorno l'ho visto per sbaglio e mi ha detto dice vivo, dice lì, sai dove si era pigliato la casa, vicino a scendendo per San Camillo, lì si era comprato la casa e mi ha detto dice c'è un problema, non sto bene eccetera eccetera, poi no, sono stato un bel po' che non lo vedo, la verità, non so se è vivo o se è morto. Ci vedevamo spesso noi, eravamo dei amici, andavamo al bar con Andrea Maricone eccetera eccetera, via Rizzito, passava spesso. Adesso sono da un bene, non lo vedo, sono almeno 6-7 anni, forse di più pure. Non sai che è morto da 5 anni. Mi sembra strano come te non si informi e che non che conosce un amico e non si informa. Mi siamo andati tutto al funerale. Vabbè. Chiudo qua. Molto bene. Ok, ciao Marco. Buon proseguo di serata a tutti. Mi stavo ascoltando, sono entrato solo a dire questo argomento. Ciao. Ciao Claudio, ben sentito, credo che non ci fosse nessuno, ho detto chi può, magari è andato bello, farsi una bella scappagnata. E oggi è andata così, ieri sono uscito, oggi pazienza, oggi lo dedico alla casa. Antonè, ma Cucciolo per caso non è che era parente di Sandro Satellite? Può essere quel Cucciolo che ricordo io? La verità non me la ricordo adesso, siamo parenti. Comunque lo conosceva anche Sandro, lo conosceva bene, ci vedevamo spesso. Non sapevo niente che era morto da 5 anni, la verità, quindi per quello te lo so pure dire. Mi ha detto, dice, Antonio sto male, dice, ho cambiato casa, vivo con mia moglie, scendendo verso San Camillo, mi ha detto che poi non ho saputo niente, la verità. Quindi figurati tu, se no non... Se l'avessi saputo ci sei andato al funerale, invece non sapevo nulla, la verità. Allora faccio l'anima sua, era una persona in gamba, era tranquilla, una persona che si divertiva almeno. Ti faceva anche ridere più che altro. Vediamo se è rientrato Antonio. Antonio, sei stamatto? Eia! Eia. Ascolta, quindi hai due pali, è entrato Claudio, hai due pali Antonio, uno con la, come si chiama, quella lì, la Thunder, bah, non mi viene il nome, e uno con la Ringo, così è. Ciao, adesso sono con quella là. Sentiamo te, arrivi qua, io sto per capire. Stazionaria. Com'è? Santiago 3 arrivi qua, quasi quasi non ti stavo riconoscendo. Cappa, Pupu, come sto arrivando da te? Io sto dicendo 3B in meno, se sei con la storma. Cappa, di cazzo, ma è proprio differenza, con quella là è un altro pianeta. Lo so, ma io ti ho detto, secondo me, se sono 5 io me l'avevo giocato per non abbia 27 nella vita. C'era 5 ottavi, al limite avresti lasciato la Ringo 9, ti avresti messo la B27 a fianco e avresti usato tutte e due le antenne, apparati ne hai due, quindi a uno l'avresti lasciato quello lì e all'altro l'avresti lasciato l'altro. Così non sei stato sempre a cambiare antenne, a cambiare quella, a cambiare quell'altro, secondo me. Questa è una cazzata su internet, la Sirio 5 ottavi, la B27, ce l'ha manco e esce bene, basta vulcanizzarla e fargli un bel lavoro sopra e non ti crea nessun problema, per quello che costa 75 euro, guarda. Di chissà che cosa. Da fianco all'altro. Ma questo non serve a niente. Aspetta, avete parlato in due, prima con Poponio, poi con Antonio, non ho capito niente. Allora, vai tu Antonio, cosa hai chiesto? Ho detto che quindi è sempre lo stesso il segnale. aspetta che guardo che qua Antonio, la vista non mi aiuta, vai. 1, 2, 3, prova. Ah, così è 9.15. Quando hai fatto la prima prova eri 9.10, forse con i watt al minimo, quindi 9.15, invece con l'altra 9.20 pieno, 9.20 pieno. Claudio, riprendi tu? Ah, Claudio, tu arrivi a Diego 3, non so con l'altra cosa gli arrivi, ma... No, sono le prove che sto facendo per vedere se in effetti la posso ottenere questa qua. Cambiato il radio, giusto per capire se è un problema il radio, ma problema il radio non ce n'è. Allora, Antonio, con questa antenna che stai andando adesso qua arrivi Santiago 5, ok, con l'altra arrivi 9 più 10. Non rende nulla, dai, se sono Santiago 5, dai, metto quella là che è meglio, dai. Poi continuo a ribadire il fatto che se tu chiedi controlli a chi ti sta vicino, non ha nessun significato. Quindi io che sono distante qua arrivi Santiago 5 con una e 9 più 10 con l'altra, che il tuo segnale ottimo è alla grande, ok? Detto ciò vi saluto, ciao. Con questa è un'altra musica, dai. Con questa sei 9.15 addirittura. Va bene, è una prova che stavo facendo. I sabbia e luci, ne ha stacco e via. Comunque, hai visto Claudio, è incredibile la differenza tra la vicinanza con quella bastone di antenna e la lontananza con te. Cioè, Antonio da me sarà 1 km e 200 metri, no, di distanza, e scende praticamente 10 dB, no? Due Santiaghi, da 9.10 a 9.20. Dati addirittura crolla da 9.15 a Santiago 5, fuori di gap, incredibile. E poi il controllo si chiedono a lunga distanza e soprattutto con me che sono fuori Sassari e che vi può dare controlli molto molto giusti, visto il radio che ho anche. Perciò non serve a niente chiedere controlli così in città, non serve assolutamente a niente, perché in città siamo tutti forti. Poi quando entra un corrispondente là fuori, chi non lo sente, chi arriva a uno, chi arriva a zero e chi ne ha più ne metta. Controlli si chiedono a lunga distanza, oppure con uno come me che è fuori Sassari, non lontano, ma comunque fuori dal circondario. Va bene, per me Anto quell'antenna la puoi anche fare a pezzi, per conto mio, perché non ha nessuna resa. Perché da 9 più 15 a Santiago 5 è tantissima, tantissima differenza. Detto ciò vi saluto di nuovo che vado a vedermi un po' di sport. Ciao a tutti. E io ciao Cla, ci sentiamo. Ma infatti vado a cagare. Ciao Claudio, ci sentiamo quando capita. Ok, ciao, buona serata. E quindi Anto, no, non ci siamo. Poi anche vedi con i baracchini, cioè è strano che da me scendi 10 dB, cioè e da Antonello solo passi da 9.20 della grande a 9.17 della piccola. Si vorrebbero smitter affidabili, tipo K, no? Quindi sono molto relativi i controlli dati con i baracchini normali. In più siamo troppo vicini e quindi comunque il suggerimento mio è sempre stato uno, io te l'ho detto già da tempo. Anziché avere una mezza onda, poi antenne piccole aggiuntive, bogani tutto, metti un'antenna buona, una 5 ottavi. Una 5 ottavi magari un tantino buona, oppure anche tipo questa, purché la isoli bene, la devi proprio vulcanizzare in tutti i punti sensibili, purché sia una 5 ottavi però, e vedrai che i risultati miglioreranno sensibilmente, non sarà, diciamo, notevolissima la differenza, però migliorerai. Avanti. E buonasera a tutti, dai, Gianni non più, non so chi ci sia perché ho appena acceso. Ciao Gianni, Pomponio, Antonio Bombolo, Claudio che però sta guardando sport, credo. Ciao, dai, saluto tutti cordialmente. Ciao Marco, mi hai sentito dopo tanto e che prove stavi facendo? Ho appreso 5 secondi che stavi usando un'antenna piccola, una grande, non so che antenne siano. Una stavo usando la Storm e una stavo usando la Ringo. Adesso c'ho la Ringo. La Ringo è una sabbianetta. Adesso sei 12.25. Prima quant'ero? Con la Ringo? trasforma adesso, così lo guarda. Cambio il capo. Stessa potenza tu, se no, se cambi la potenza poi non corrisponde. E stessa radio, stessa potenza, certo. Insomma, ne stanno spuntando di persone già, credo che fossero tutti a Platamona. Io mi sono alzato poco fa, Antonio mi ha chiamato che gli serviva un controllo. C'avevo il gatto in grembo, che mi fa da scaldino e chi si muove più. Invece mi devo rappare a zero e fare il bagno. Stai facendo tutta la vita da ciabatto? La vita di Don Galeazzo, capito? Che mangia, dorme e non fa un cazzo. Appunto, com'è già? Prova tu. 1, 2, 3, prova radio. 9, 5. Ah, carità. Russa via. Aspetta, quanto è variato oggi? Gianni, ripeti quant'era con la Ringo? 9, 25, c'è 9, 5. Gaga, vero? Allora, hai notato, Anto, che più vicino sei, meno differenza c'è. Più ti allontani, più le stazioni sono lontane da te e più la differenza si accentua. E la rusoguia. E sono a manetta di vatti in questo apparecchio. Sì, sì, no, ma infatti, guarda, Gianni ha fatto benissimo a mettere una 5 ottavi con 5 maiuscolo, capito? 5 ottavi, classica, bello spessore, poi quella è tipo Mantova, credo, no già? Anzi, meglio, perché c'è la parte di giù che è tutta in acciaio, la parte che entra dentro il tubo è tutta in acciaio. Aspetta che il cambio. La parte che la porta qua c'è resi, da lì è saldata con un cordone di saldatura, è saldata tutto col saldatore. Buono. Io già invece l'altro giorno le stavo parlando con chi, forse non ero nemmeno in radio. Questa antenna qua io non gli avrei dato 3 anni di vita, questa Energy 5 ottavi, anche perché il vento, nonostante ci sia Monteoro, Monteoro è a 4 km di distanza, cioè qua il maestrale arriva comunque a bomba, non avrei detto 2-3 anni durerà, ha detto, invece compie 8 anni a marzo. Se io con la perla avessi mangiato qua, ma un giorno mi sarebbe durata, col maestrale che tira qua, lì è perché sei, diciamo, protetto dai parati, e prima di arrivare al mare mi vedi, no? Io ce l'ho proprio di fronte, se l'avessi messa qua io mi sarebbe troncato 2 giorni. Sì, è lo stesso discorso di Sandro di Porto Torres. Lui era talmente, cioè a lui gli arrivano, quando arrivano quelle sferzate terrificanti, lì è tutto libero. Perciò lo stesso aveva avuto problemi con quel tipo di antenna. E comunque già, l'alluminio, chissà perché, a me sembra sempre la solita soluzione. Comunque ti rammento che il discorso l'hai fatto con me, con le antenne, quando io ero al quadrato, stavi parlando con me, mi hai detto quella roba. Anche io non ti avrei giurato di durasse così tanto, perché so che sono antenne molto leggere come struttura, come materiale. Sì, e poi è fina, è sottile, no? Cioè rispetto alla Mantova che c'ha l'elemento più basso che sarà 35 mm se non 40, no, di diametro. Questo è un diametro ridotto. Però è vero che sì, è più sottile, però offre anche meno resistenza al vento, essendo più sottile. E quindi magari, come dire, si compensa, capito, la cosa. Certo. Nel senso che anch'io ho avuto la Mantova 5 prima di questa qua e anche della Game Master, avevo la Mantova 5 e fletteva molto meno della Game Master. La Game Master è meglio che sia altro che in due, se fosse altro quello di giù, quello che abita nell'attico, mi ha detto, oh, c'è ancora che ti sta per troncare l'antenna piegata in due, però non ti preoccupare che quell'antenna è registrato 160 km orari, ha già raggiunto la cazzata. Però c'è scritto così, nelle istruzioni c'è scritto così. Rudy, non lavorare. Magari quando è costante, cioè magari loro la controllano, non so se le facciano le prove con la galleria del vento, no? muovono le macchine, cioè se sono costanti posso capire, ma quando arrivano che le ventate improvvise, cioè smette e poi arriva la botta, la sversata, quella è che spacca le antenne. Eia, che farà? Eia, vediamo se Pomponio c'è ancora, però Pomponio c'ha questo terrificante rumore di ventola, di turbina. Antonè? Antonello sta facendo, ha detto, il bagno nella birra. Si diventa biondo. Da bianco diventa biondo. Poi se è birra rossa diventa rossiccio, capito? Tipo irlandese. Peccato per Natalino, che c'ha vicinanza un po' ostile. Ma la deve mettere l'antenna, non so, si sta organizzando, non so cosa abbia colto, cosa abbia deciso, però so la deve. Lì ci vorrebbe un amico alla voce rauca, ci vorrebbe un amico con l'autoscala, conoscenze, cioè che gliela prestino, perché se no se la paghi ti costa ben oltre il valore dell'antenna e dell'installazione. Ma quello non mi risulta, almeno che chiami i vigili del fuoco, eh? Eia. Bene, io adesso stacco e vado a posarmi con le pecore. Che altro dire? Tanto può servire per ma tanto tu c'hai già la Ringo, cioè per città e oltre c'hai già la Ringo. Avere un'antenna inferiore, a meno che non ti servano due baracchini in due stanze diverse, non lo so. Il capo, una prova che volevo fare. Come bene va questa? Sì, adesso sei 9,25. Conta che qua il massimo è 9,30, sei 9,25. Kappa. Ehi, se voglio vado anche oltre. Comunque anche la mezz'onda ha il suo perché, cioè magari una mezz'onda non Ringo, per esempio la Sirio la fa, anche la Midland la fa, cioè la stessa come la mia ma mezz'onda, senza radiali, una volta isolata bene, perché a me la Ringo, tra l'altro io ho resistito un anno, poi ce l'ho buttata dal terrazzo, per carità. Troppi problemi, poi si era mollato, si era proprio mollato lo stilo da quell'anello di plastica che fa da isolatore, era balla a balla, era la molla che teneva lo stilo, una cosa folle, proprio fatta con le chiappe, con l'antenna, perciò non ne ho voluto più sapere, ho messo questa. Ma ti dirò di più, Anto, allora con la Ringo e i watt di questo apparato, Sandro di Porto Torres, che sul mare, non mi copiava, ero nel QRM, con questa mi copiava, quindi sono passato dal non essere ascoltato all'essere ascoltato normalmente, senza problemi, con i watt dell'apparato. Accesso il microfono, hola. Questa qua già va bene, già. Sì, va bene, però è un po' debole meccanicamente, cioè io sono molto in alto, cioè non molto in alto, oddio, sono relativamente in alto, però col vento che c'era, caspita, la Ringo mia si stava smontando e ho dovuto cambiare antenna. Ok, dai, io stacco. Ciao Antonio, Gianni, Pomponio, Claudio, se ancora l'ascolto, e tutti gli ascoltoni. Ciao, buona serata. Buona serata a tutti. Ciao, ce la risentiamo. No, questa che ho già, la Ringo è meglio. Va molto meglio. Ciao Marco, ci sentiamo, buona serata. Ehi, una cosa, ma qual è la Ringo che vende Fusaro? La Ringo della Lem? Cappa. Ma questo è il modello vecchio, non è il modello... Poi c'è stato il modello, l'altro modello, adesso c'è il modello nuovo, cioè... Il modello nuovo mi hanno detto che va bene. Anto, io ricordavo il modello vecchio, intendevo quello di 20 anni fa. Quello era buono. Poi l'hanno cambiato, io l'avevo presa nel 2013 l'avevo preso, doveva essere il modello nuovo rispetto a quello di 20 anni fa, no? Però mi ha dato solo problemi. Adesso che abbiano fatto un terzo modello io non lo so da provare. Io l'avevo pagato a tipo 39 euro da Fusaro nel 2013. Adesso il modello nuovo ne costa 60. 60 euro? Il cacchio! Ero curioso di vederla, se avevano migliorato qualcosa, se meccanicamente era più giusta. Boh, vabbè, dai signori, devo staccare, se no non finisco più. Ciao a tutti, ciao, vai Gianni. Ciao Matteo, buona serata, ci sentiamo. Guarda chi aspetta. Kappa, secondo me sì, perché l'ho vista un po' diversa, l'ho vista dall'altro. Spiegare chi c'ho. C'è propagazione. Ho sentito. Oi. Attenzione, se ascoltate l'isola sarda, cambio. Vieni avanti dal continente nero, ti sentiamo, vieni avanti. E chi è? Questo è stanco. Ciao Gianni, positivo, buonasera a tutti di nuovo. Ciao stanco, mi hai sentito, dai. Poca ruota, c'è magari c'è qualcuno all'ascolto, ma siamo in due. Kappa, salutone amico! Ricambio! In che zona sei? Bologna, cambio! Non sei a Bologna? Un po' più vicino, un po' più lontano? Kappa. Ma va, prova a fare due passaggi con chi do goso già. Allora, Torino, sentito via, attento a Torino, attento. Gianni. Oh. Guarda a vedere il segnale com'è. Sopra. 1, 2, 3, prova radio. Sto passaggio lungo. 1, 2, 3, prova. E se 9:25. Sono 9:25. Mi adesso sto spingendo parecchio. Ma quello che mi segna adesso mi dice 9:25, quasi a 30. Kappa, chi è avanti, chi chiama? Ti ho detto che eri forte anche di radio. Ma qua vicino sei a fondo scala qua. L'amico. Ho fatto un paio di regolazioni. Arrivi fortissimo qua. Ma dove sei? Sotto vicino a casa mia. Verso pettine. Sì, sei a fondo scala, in occhi. Kappa, dove sei già andato alla Corso Vicco? Più o meno sì. Ah, ecco Barosa. Porta ti arrivo io. Sempre anche tu a fondo scala, sì. È un grido già, zona mia. Cazzo, 10, fondo scala, proprio verde, già sul verde sei entrato. Kappa, ma dove sei? Sei fortissimo qua a me. Alle mura sono, alle mura. Alle mura. Ma qua in via... Mi do venire anche sotto, mamma così. Alle mura dove? Qua per fare la cosa, come cazzo si chiama? Belle Sicilia, vai. Kappa, stai toccando il DB, stai toccando. E mi sta facendo interferenze anche il coso, questo cazzo di motore, mi centrano le scariche nella cosa. Ma va solo quel po' c'è Sant'Antoni. Fondo proprio. Kappa, io sono un giorno della stazione. Dove sei? Nella stazione, quasi. Ma in barra mobile sì. Casa fissa. Ci sono adesso alla stazione, era bene, grazie, ma è... Però si vede la tua, dove sei? Sono da Luciano, mi sono fermato davanti a Luciano. Non si vede nulla qua. Sei... Non si vede da qua, no. No, infatti non è vero. Ma non sono lontano da te, sarò pochi metri. Ancora un chilometro e mi fermo. Kappa, ma sai dove la vedi la mia antenna? Da cosa, come si chiama? Se vai in largo infermiera a San Pietro, invece quella palestra, dietro Piazza Corona Mariani, da lì si vede. Sto facendo il vecchio mercato civico adesso. Kappa, sempre a fondo, sì. E ma Natalino, cazzo, no, mai sci due, ancora ben Natalino, cazzo, io non mi intende mai. Ma chi sei? Giovanni. Da Porto Torres. Terzo Pettine. Ah, ecco. Rimani che faccio un altro passaggio, aspetta un attimo. Ehi, a Kappa. Già. Sono detto... E perché sei così basso? Dove sei? Più picchio. Uè, Popo! Eia! Forte sono? Se forte sì adesso. adesso sono con l'ala 87 che con quella roba là. Sì, no, perché sei con l'ala 87. Scappa, la micro è che scende. Ush, ma stavolta a cosa vai? E la fa via, via Bugino. Sì, già sono un giorno che non ci vado. Ah, io c'ero avanti una mezz'oretta, ma anzi quasi un'oretta, non di più. Capito? Siamo arrivati subito. Ho lasciato giù che siamo là qui a Baracchino col PMR. E io mi sono portato l'88. Tutto il tragitto ho fatto. Da lì, dentro naturalmente non pigliava l'accidente, dentro quel locale, ma fuori sì. Già lo so già. Io sto andando in via Grazia Veneta molto perché mi trovo bene. No, via Grazia Veneta non ci sono mai stato io, non so neanche dove il coso, quel circolo. Di via Grazia Veneta. Ah, cosa ho capito? Salendo su che poi nella salita deve scendere tra le scalite e scendi giù. Negativo, poi c'è la pizzeria Corallo. La pizza, non ho capito, via Corallo. Vicino alla pizzeria Corallo. Ah, vicino alla pizzeria Corallo. Quindi vabbè, se mi capita qualche giorno già ci passo. Se capita che sono in macchina, magari con... Se sale Andrea a Sassari, andiamo al Cuvio. Ci andiamo, mi esco in giro e mi faccio la passeggiatina lì. E andiamo lì. Un bacione in gamba, eh. Già lo so, già lo so. Avanti, avanti. Attento Natalino, attento Natalino, cambio. Non c'è Natalino. Ma dove è Natalino? Negativo, dove sei adesso? L'ospedale, pronto, l'ospedale. Sembra forte sei qua. Ma Gianni è sparito, eh. Oh, non l'ho sentito. Marco, vabbè, io mi sono spostato un attimo. Marco dovrebbe essere... se lo si sta lavando. Vai, già a balle, ci qui tumba. Fuori gli Stati Uniti, era ora, grazie. Satelliti, quelli di fuori, così li chiamate? Oh, gli Stati Uniti. Io non tengo visto, non tengo. Dagli Stati Uniti, lo sento. Già li va bene, 5-6 di segnale. Capa, attenzione Italia, Italia fa chiamata, Breco! Mi ha risposto? No. Spagna in ascolto per l'Italia, viene avanti, cambio! Attenta, attenta, attenta Italia, se copia Spagna, viene avanti, cambio! A voglia! No, sono gli Stati Uniti, sono. Via, Stati Uniti proprio sono. Io li sento. Non li senti? Li sento, ti ho detto, li sento anche bene, cioè ogni tanto li sento anche bene. Ora, uia, aumentato, ma. Sempre fanno scala, sempre fanno scala. Andava. Beh, vi saluto tutti quanti, ciao, alle prossime, ciao, ciao, ciao. Ah, ciao, ciao, risentiamo. Ciao, buona Pasqua, buon Capodanno, felice anno nuovo, cazzo già ci sono i cosi, cazzo, bello spirito. Le uova pasquali sono arrivate. Figurati. E adesso un busto di plastica non ce ne sono più me. Che cazzo ma che. Ma dove cazzo me la metto la roba io dopo sta qui? Le uova busta in cartone, in carta mi ha detto. Ah, vai, tu sei fuori di testa davvero, gli ho detto. Se mi metto cazzo per 5 kg di roba tu devo farmi via calofrice tutta in discesa a recuperarla. Cosa vuoi che ti dica? Che è tutto in cosa, busta di carta adesso, cartone, non capito come si facevano tanti anni fa, busta di cartone, se c'è qualcosa che è appuntita, si taglia la busta e ti ritrovi tutta la spesa interna, peggio delle buste biodegradabili, adesso quando riesco a farmi la spesa mi porto le buste da casa, già ne ho 7-8 di quelle buste, e dico, a me la mano non ce le buttate. E cosa vuoi che ti cantarebbe? Le leggi, capito, della comunità economica europea sono queste adesso. O buste biodegradabili, se no e buste di cartone, ragazzi. Non viene. Di carta, non di cartone. Secondo me, se ci mettevi un lineare dentro, uno spidi CT e si apre in due, quella busta. Come c'è un filo dentro, è già aperta. È bravo che ti canta me, per carità. Quindi io lo so, via. Già stiamo andando bene. Ok, adesso già è a posto. Digetto piccolino. Oi. Andava, che cosa però mi stanno oscillando le stazionarie. Sì, vabbè, a seconda della potenza lo sai, quando sei con 5-10 watt le stazionarie non salgono, quando comincia a pompare la questione cambia, salgono uno, ogni due, ogni tre, dipende dai picchi positivi che c'hai. Ragazzo. Ah, ecco perché. Ah, Figurando Mariera. Ah, ecco. Tu vero va bene. Già pompa, ya. Andate. E la pompa sì. Che ne abbiamo fatto? Siamo le 4. E adesso chiama la ghita, sono le 4:32. Sì, a 4:32 sono controllato adesso al telefono. Beh, ragazzi, stazionarie fanno bene, anche se c'è oscillazione sull'antenna perché c'è un po' di vento, però adesso fanno bene. Ma il vento non è che ci sia molto. Qua sì. Oh. Se no pure un lineare avrebbe fatto un puff se c'è una tante stazionaria. Davvero, mi è arrivato il segnale da ora. Cazzo, ho dovuto caricare il telefonino qui di giro, posto immobile, cazzo. La più bella. Il più bello sono io. Meno male già non mi sente. E Baku senti, sì. Beh, cazzo, arrivano fra lo scala qua, cosa devo fare, cazzo? Tanto soccorso arriva bene qua. Pronto, soccorso, primo piano, secondo, mi sento tutti. Mi lamento in balle, che aspetta un attimo sul telefono. Che è? Che vuoi che sia? Ah, i bari che stavi usando questo, mi ce l'ha quasi uguale. Sto scaldando il bagno, nel frattempo ho attaccato un altro apparecchietto che avevo già provato, funziona tutto bene, l'eco sente, sì, lecca, dimmi se ho alternata, senti un po'. No, niente alternata, c'è bene. Ehi, ruota, non ce n'è più qua. Tanto mi sei spostato un attimino, se vuoi in due, e tu? Sì, ma tanto adesso faccio, era solo un passant, nel frattempo si scalda il bagno e qua noi non usiamo riscaldamento centralizzato, quindi quando a scaldare un po', ci vuole un po' d'aria. Hola, test 1, 2, 3, prova, President Richard, 12 watt, 10 utili. Ci esce bene. Io mi devo sempre comprare quell'aggeggio, cazzo. Uno di questi giorni quando ci vediamo me lo ordini. I soldi ce li ho. così mi arrestano almeno. Peccato per la giornata, c'ho un crepo, guarda. Tutto sole, a saperlo, mi sarei organizzato con qualcuno per fare un giretto, anche Alghero, ma andare da solo, e poi ormai è tardi, col sole mi prendere con la luce, poi comincia a fare freddo e umidità, se no. Beh, se vai in Alghero adesso stai bene, per il momento, come comincia a indurire, poi dimmi, specialmente se vai nella zona del mare, incomincia l'umidità, vedrai come ti entra dentro le ossa, mi ha fatto a me l'altra notte. Sono uscito con Giovanna, sono uscito e sono entrato dopo tre quarti d'ora e dopodiché ho cenato e trattino a casa, tutta la notte camminando ce l'avevo, non riuscivo a casa cavare i piedi fino alle 3 o 4 di sera, due camomille ho preso a casa, tutta la notte un attimo. Sotto come? Cosa stai facendo? Crocco! Però tu ne puoi parlare di altre cose, poi non avevi più proseguito quel progettino. Qualcosa dovevamo ordinare piccolina da AliExpress, nulla. E vabbè, tanto mi alla fine. Roba fine a se stessa, non c'è tanto, vai. Ah, tanto poco fa. Aspetta, ci messo in mano, aspetta, quando ne hai voglia, ti fai vedere e così lo ordiniamo quell'affare. Quel trasmettitore FM. Capito? E poi già mi piglio l'antenna. Con la frequenza, così mi diverto ogni tanto un pochettino, tanto ho messo un altro palo, ho installato e quindi c'ho la gaffa pipetta e non faccio altro che agganciarla di lì, hai capito? Se potessi ascoltarmi, porca miseria, no, fischia, non fa, dai, devo mettere un apparecchio in un'altra stanza e un registratore per sentire la modulazione effettiva. Va bene, Gianni non c'è più nemmeno, no? E beh! Via, tu sei entrato. Guarda che ti puoi ascoltare, mi. Accenditi un bracchino, ci metti un paio di cuffie e te le regoli al minimo e ti ascolti, Marco. C'è bisogno di metterti l'antenna in una tappata a registrarti. Io facevo così. Io mi mettevo le cuffiette, me le regolavo al minimo e ascoltavo a me e ascoltavo. Sì, ammazzi. Con un altro antennino magari messo in un terrazzino, non so. E io ero un basso. Sì. Ehi, Antonio, è rientrato Antonio, eh. Antonio arriva a questo Smithersham 9.30 pieno di fondoscala ed è incollato a fondoscala, non va oltre, 9.30 pieno. E peraltro è lo stesso Smithers del 3009. La forma, il colore è quello, identico. Chi è fondoscala? Io? Ehi, Pomponi è 9.20... 9.25, prova Antonio. Ehi, 9.25 sarà. E nemmeno. Cioè, vabbè, tieni presente che il palo è ruggidoso, devo già ballo, devo cambiare il palo e i raggi, dato che ci sono, mi piglio quell'antenna che abbiamo parlato l'altro giorno, quella lunga 10 metri di stilo e che c'ha quei 4 radiali, se cambio cambio il tutto, cambio il palo e cambio anche l'antenna, poi la manta la prendo, la scendo e la pulisco, poi boh, si vedrà, o la metto da parte, non lo so, perché è ancora buona l'antenna, la mantova turbo. Ok, Antonio, non mi hai spiegato ancora cos'è questo rumore terrificante che c'è di fondo? Ah, vento a cinese, dell'alimentatore, senti, si sente. Ma all'anima della ventola, Antonio, non dico io, è una turbina. C'è leggero leggero questo lecca lecca, questo è di serie, non c'ha delle regolazioni ma non le ho toccate. 6. Questo in FM pompa, a 40 watt in FM, 12 AM e 40 in FM. Bene, dai, riprendete, io stacco e procedo. Buona serata a tutti. Ciao Antonio, Pomponio e chiunque all'ascolto. Ciao a tutti, ciao. Scusa ma sono andato un attimino giù a fare i bisogni. Cappa. Un e uno c'è gli stazionari, è una bomba, eh. Hai visto, sei contento. Ciao ma comunque ci sentiamo. Eia, non così tanto, avevi provato i limiti di banda, quanto hai? Noi siamo ai 27, no, 27.085, provare sui 26.05 e controllare le stazionarie, puoi andare a 27.995, naturalmente senza sconfinare sui 28 e controllare le stazioni, per sapere quanta larghezza di banda ha quella Ringo. Guarda, se vado sotto addirittura proprio neanche si muove questa cosa. Cioè è leggermente più tarata sotto. Io andavo per esempio sull'80, canale 80 e misuravo. Poi 40 sotto e misuravo. E mi facevo avevo un'idea di come, di dove era il centro banda. Questa il centro banda ce l'ha sul 12, sul canale 12 è proprio il centro banda massimo. Uno sta uno, proprio non si muove. Misurato con l'MFG, con il Rosmetro, no, MFG scusa, Daiwa. Col Daiwa, quel costosissimo Daiwa inutilizzato, l'ho usato una volta e poi accantonato come tutto il resto. Vuoi Antonetto? Eia. Yeah. Yeah, andate. Qui c'è qualche stazione giù, invece adesso un giorno che non mi misuro. Prova. Via. Via, ci metto un CD5, sta parecchio io. Cazzo. 1,5 c'ho. 1,5 di stazionarie. Non è normale. Ho il cavo. Adesso non è stessa. La bobina, quella nera, famosa della Mantova, che monta la Mantova. Cappa. Ma la... come si dice? Internet buone. Ce ne sono poche. E io... mi sa che se va bene quella là... perché è tornata, torna con la cosa a viti la Ringo. Non ce l'ha più... come il modello vecchio, che secondo me è il meglio che abbiano fatto. E mi sa che io me ne prendo un'altra e me la metto molto più in alto, perché quel modello vecchio là funzionava molto bene, il modello vecchio, ma non lo nuovo, quell'altro che avevano fatto, quell'ultimo che hanno fatto, cazzo, secondo me è fatta bene l'antenna. Ecco, senza eco, tolto l'eco. Vediamo se è più chiara, se è meno chiara. Anto, ti volevo dire, guarda lo smitter. 9,40. Ma hai lo smitter buono, l'apparecchio buono? Secondo te facciamo un bet. Aspetta un istante, guarda fra un istante, un attimo. Cappa. Com'è? Non si sente niente adesso. No, non la radio, il segnale era. E un po' di più. Sì, ho trasmesso in FM, ci ho messo la portante in FM che ha 30 o 40 watt, quindi te lo faccio rivedere, aspetta. Cappa. Sono in FM, forse fregatene un po' della modulazione, segnale, interesse. Un attimo, vedere, com'è? Ah, sei in FM, sì. No, ma in FM l'apparecchio amatoriale segna molto di più. Segna molto di più, a me interessava che tu ascoltassi la M. Adesso sarà fuori scala sicuramente. Cappa, ma mica tanto di più. Ah vabbè, da 12 a 40 non sono effettivi, saranno 30. Va bene, tutto qui. Ok, stacco Antonio. Ciao Antonello, ciao Antonio, ciao a tutti, ciao. Cappa. Ciao. ci sentiamo. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Adesso Draghi ha tirato dritto, obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Adesso. Vuoi testa, il passo anche oltre. Ehi, ha messo